Il gastronauta di Davide Paolini. Gastronauti vicini e lontani, buona giornata da Davide Paolini. Ebbene, oggi faremo un viaggio bellissimo in una terra che mi ha sempre affascinato, anzi devo dire che ho cominciato a frequentarla negli anni 90 e c'è un testimone che fra poco chiamiamo, appunto, che quando sono andato alla scoperta di un cioccolato particolare, ma ne parleremo. Dunque, questo è un viaggio nel barocco siciliano, però alla scoperta, ovviamente, di saperi e sapori, e qui veramente c'è veramente tanto da raccontare. Alla fine avremo dimenticato tantissime cose, ma cominciamo ora, poi magari ci ritorneremo su questo territorio bellissimo. Allora io voglio cominciare a parlarne di questo territorio con un personaggio che non solo è stato un pioniere del cioccolato di Modica, ma anche un pioniere del suo territorio, uno che ama il suo territorio, ama farlo scoprire, ama anche le cose degli altri, non solo la sua dolceria Buonaiuto a Modica, appunto. Buongiorno a Franco Ruta. Buongiorno Davide, buongiorno agli ascoltatori. Franco, ma questo cioccolato di Modica, negli anni 90 era uno sconosciuto. Quando sono venuto nel 1991, che ho scritto il primo pezzo, veramente in pochi lo conoscevano. Oggi c'è un vero e proprio boom. Cos'è successo in questi anni? È successo soltanto che abbiamo prestato un po' più di attenzione a questo bene culturale, perché così lo vorrei definire. È un cioccolato che ci era stato trasmesso, d'altronde sappiamo tutti che in Europa abbiamo conosciuto questo cioccolato, anello di congiunzione e trasmissione culturale sono stati gli spagnoli e la Spagna, e quindi meritava per il suo substrato storico e anche organolettico di avere un po' più di attenzione. Da quel momento abbiamo lavorato e abbiamo cercato di capire quali erano i punti importanti di questo prodotto, che in fondo è una banale tavoletta. È cresciuto tantissimo, abbiamo fatto le nostre ricerche tornando indietro, e a proposito di questo abbiamo adottato anche uno slogan che a tornare indietro ci proviamo gusto. Questo ci ha dato delle enormi soddisfazioni e abbiamo retrodatato, ad esempio, con le ricerche del Redi a proposito del cioccolato del gelsomino o del cioccolato che il Redi descriveva con la scorza di limone, ed è proprio in questi giorni, giorno 27, che presenteremo ufficialmente il cioccolato al gelsomino realizzato in modo filologico secondo la ricetta del Redi. Cosa vuol dire brevemente? Che il gelsomino non entra come ingrediente nel cioccolato, ma utilizzando il potere magico, direi, tra virgolette, assorbente del burro di cacao, entra soltanto come profumo. Quindi da un punto di vista organolettico non senti il gelsomino, ma al naso tornano questi profumi. Noi lo stiamo realizzando con Bene. Un vivaio di Carruba di Giarre, che è un vivaio specializzato in gelsomini, perché immaginate, e concludo, che per un chilo di materia prima, di pasta amara, tanto per intenderci, per più giorni, ogni giorno occorrono circa 250-300 gelsomini freschi. Bene, rimani con noi perché questa terra offre anche molte sorprese, offre ad esempio un'azienda di piante officinali a Scicli. Bene, con noi Enrico Russino, che è il patrone, il ricercatore. Buongiorno Russino. Buongiorno a tutti. E quali sono queste erbe officinali che si possono trovare da lei? Ma guardi, noi produciamo più di 150 varietà di aromi differenti, quindi è un mondo vastissimo, si va dal timo selvatico, cioè la satra, nonché alla mepitella, alla maggiorana, al finocchietto selvatico, e quindi noi 15 anni fa abbiamo iniziato questa attività e adesso siamo diventati, credo, leader in Sicilia nella produzione di queste piante. Ecco, ma come le è venuta, diciamo, questa idea di fare questa coltivazione molto particolare? Ma l'idea è venuta, si può dire, a me, comunque alla mia famiglia, anche perché l'azienda è a conduzione familiare. Certo. Anche perché girando per tutti i vivai siciliani mi ero accorto che non esisteva un'azienda specializzata in questo settore. E da lì abbiamo iniziato a produrre le classiche fino ad oggi ad avere tutta una gamma varietale enorme che va dalle sia piante aromatiche sia piante officinali. E fino a che ora, da un paio d'anni a questa parte, ho intrapreso anche una coltivazione di gerani profumati, tra cui la Malvarosa, e quindi, come dire, l'azienda è diventata punto di riferimento per chi vuole fare un'esperienza olfattiva, chi vuole conoscere questo mondo, chi vuole degustare delle cose particolari. Bene, grazie Enrico Russino a Scicli, provincia di Ragusa. Un minuto ti do, Franco Ruta, mi devi dare un posto inedito, poco conosciuto di Modica, dove magari un turista non arriva, lo facciamo arrivare con la tua indicazione. Beh, i posti sono tantissimi, ma sicuramente una cosa importante che è stata nel tempo trascurata sono le nostre campagne, che sono ricchissime di architettura rurale e sono state disattese, mentre adesso c'è una scoperta del territorio rurale in un modo determinante. Bene, grazie a Russino e grazie a Franco Ruta. Arrivederci a presto. Il gastronauta. Eccoci di nuovo. Bene, in questo viaggio, continuiamo questo viaggio in questo territorio, e l'ho detto prima, ma ora lo riconfermo, che nel 1991 mi ero messo in testa di andare a visitare questo territorio ricco di barocco, e girando contro girando, alla fine di questo viaggio ho scoperto sapori, saperi e soprattutto dei grandissimi personaggi, e sì, il barocco mi ha interessato, ma devo dire che ho scoperto, vabbè, Noto, Modica, Ragusa Ibla, ma soprattutto sono tornato con un pezzo, lo ripeto, nel 91 sul cioccolato di Modica e tanti altri personaggi. Allora ogni volta che ritorno su questo territorio, anche con la memoria, ora con una serie di personaggi che farò intervenire, appunto, ricordo quei luoghi molto bene, anche se da un po' di anni ho un po' trascurato questo territorio, ma è un modo per riviverlo. E allora io vorrei cominciare a parlare di questo territorio con un personaggio che è una scrittrice, ma che all'improvviso si è fermata in questo territorio non essendo nata lì. E appunto questo gli voglio chiedere: come mai? Buongiorno a Roberta Corradin. Buongiorno Davide. Beh, come mai è semplice, è la stessa cosa che hai notato tu nel 1991, quando peraltro eri un pioniere assoluto, perché sì, nel 91 le città che oggi sono patrimoni dell'UNESCO erano praticamente fatiscenti, quindi sei stato vero, un pioniere assoluto, molto coraggioso. Mi ricordo che il cioccolato di Modica all'epoca, io passavo tutte le estati in Sicilia e stavo però dalla parte di Marzameni, quindi diciamo a un 50 km più in là, e a solo 50 km di distanza nessuno sapeva che a Modica si faceva il cioccolato, cioè vigeva il marketing omertoso dei siciliani, quello di fare le cose e non dire che le fanno, mangiarsele tra pochi, e poi pian piano si viene a sapere che fanno il cioccolato di Modica, che fanno caciocavallo ragusano, che certo, adesso non si può più chiamare caciocavallo per tutte le ragioni che tu sai, che fanno tantissimi prodotti straordinari. E che fanno soprattutto anche grande cucina. Perché che fanno grande cucina, che poi è uno dei motivi, quando tu mi hai presentato, hai detto chissà perché Roberta Corradin si è fermata lì, perché uno dei motivi che mi ha attratto senz'altro la qualità quotidiana della vita, intesa come qualità del cibo che tu puoi avere quotidianamente, da ortaggi straordinari, grandi prodotti e grandissima raffinatezza anche nella cucina popolare. Ecco, tu da giornalista, diciamo, che hai scritto e scrivi anche di gastronomia, sei passata poi alla cucina, perché gestisci un ristorante con tuo marito. Sì, sono passata alla cucina, ma la storia è divertente, perché io sono entrata nel ristorante di mio marito per recensirlo. Facevo ancora la giornalista all'epoca, e lui mi è stato molto antipatico, diciamo in una scala da 1 a 10 circa 50, però ho trovato la cucina buona, il prezzo ragionevole, ho detto a me che mi frega che lui è antipatico, vengo a mangiare qua tutte le sere, finché una sera lui mi ha invitato a fare un giro in moto e voilà. Beh, lì fuga le 8. Rimane con noi, perché poi magari citerò anche il tuo ultimo libro, però ora voglio andare da uno di quei personaggi che poi sono passati dal prodotto prodotto alla grande gastronomia, alla grande cucina. Buongiorno a Ciccio Sultano del Duomo di Ragusa. Buongiorno Ciccio. Buongiorno caro, buongiorno. Ciccio, tu sei stato uno di quelli che a me, come a tanti altri, hai fatto scoprire tantissimi prodotti del territorio, ma anche quelli meno conosciuti, che non sono solamente il cioccolato, ma non sono solo il ragusano, ma sono tanti altri. Ne stai scoprendo ancora? Beh, è inesauribile, diciamo, il quantitativo di emozioni che si possono trovare attraverso tutto quello che è creazione, inventiva, e poi il proiettarsi sempre un po' più avanti di quello che ovviamente è di solito, perché è quello che, diciamo, la prerogativa per cui sono cresciuto e sono andato avanti nel mio cammino. Dunque, diciamo che i percorsi futuri, che sono quelli che pian piano mi stanno avvicinando un po' alla campagna, perché è quello che vorrei fare nei miei prossimi 10 anni, avere una campagna ecosostenibile. Chissà, questo sogno si possa avverare. Questo qui piano piano già sta entrando in punta di piedi nella mia cucina, nei miei piatti e nel mio modo di vivere quotidianamente. Ecco, quanto hanno influito i prodotti del tuo territorio sulla tua cucina? Cioè hanno influito, diciamo, su tutte le tue scelte, immagino. Quindi è stato proprio il prodotto che ti ha portato a creare certi piatti. Ma senza la Sicilia e senza tutto ciò che sono gli ingredienti che la compongono, non credo che non potrei esistere io. Diciamo, partiamo da questo, che io esisto in funzione di quello che mi sta attorno. È uno degli ingredienti di cui che amo tantissimo, è l'olio extravergine d'oliva, di cui Ragusa, la Tonda Eblea, è la regina degli oli, secondo me. E certe volte. Capita spesso che quando ti immagini la mia cucina o la cucina in generale siciliana senza l'olio, praticamente sparisce tutto, è una sottrazione netta, proprio drastica. Ecco, vicino all'olio, ma quale altro prodotto metteresti? Ma io amo molto il pesce, amo le carni, le verdure, amo tutto ciò che è nativo della nostra isola, le erbe spontanee, le erbe aromatiche, non solo quelle, diciamo, quelle che poi fanno parte della famiglia delle verdure, sino a quelle selvatiche. Dunque, diciamo che non c'è un prodotto solo che che va in isolamento. Certo, se dovessi avere pochi prodotti, io scelgo olio, sale e pane, sono i tre ingredienti che olio, sale e pane, che poi è grano, sale e olio. Sono per me quei tre ingredienti che compongono un po' tutta. Magari fosse così in tutta Italia, sicuramente certi distributori avrebbero finito di imporre certi prodotti che arrivano dall'estero. Vabbè, questa è una mia battuta. Ma è anche vera, perché se noi pensiamo che con un chicco di grano il sud è riuscito a farci pasta, pane e tante altre cose buone da mangiare, devo dire che la ricchezza è immensa, perché in una piccola lingua di terra come l'Italia, con questi tre elementi, compreso l'olio, e poi il sale è stato sempre l'elemento primario, di cui in Sicilia le saline di Trapani sono molto importanti. E tra l'altro sono anche un bellissimo paesaggio da vedersi, non solo sono interessanti, ma sono anche belle. E Roberta Corradin, volevo chiederti questo: se tu, che hai scritto sempre anche molte cose dall'estero e quindi sei una viaggiatrice, cosa consiglieresti a un viaggiatore che arriva appunto in questa terra del barocco siciliano di vedere? Beh, intanto la natura, perché qua è incredibile. Quando passi in queste stradine, in queste trazzere, come Rete Secco, ci sono delle quantità di verde che credo pochissimi pittori paesaggisti siano in grado di riprodurle tutte quante, ed è una natura stupenda in qualunque parte dell'anno. Poi naturalmente, come dire, io posso dire queste cose perché, non essendo siciliana di nascita, ma essendo qua perché ho scelto questo territorio, posso cantarne tutte le lodi. Certo. Ecco, far sentire tutto il mio amore per un territorio che ho scelto e non ci sono nata. E poi il connubio, anzi più che connubio, è proprio un poker straordinario che ha questo territorio, che è di natura, cultura, arte, cibo, vino, è tutto al top. Ecco, volevo chiedere a Ciccio Sultano un luogo segreto della sua Ragusa. Arriva un viaggiatore, io distingo molto tra turista e viaggiatore, quindi parlo sempre ai viaggiatori più che ai turisti. Ciccio, io vorrei che tu dicessi un luogo, cioè un posto così, magari poco battuto della tua Ragusa Ibla da andare a visitare, da andare a vedere. Ma Ragusa Ibla è quello che io posso consigliare, è prendersi un bel paio di scarpe, vestirsi leggero, due pezzi di bastone oppure due canne mentre si cammina per strada tagliandole con un coltello e passeggiare tutto il perimetro ibleo, campagne e campagne. Cioè proprio mulattiere e mulattiere, come ha detto Roberta, e la saluto, trazziere e trazziere, deve essere molto wild. E proprio farsi tutto il perimetro, sino ad andare su a Ragusa, sempre nei viottoli dove gli antichi camminavano e non erano passeggiate, diciamo erano il modo per incontrarsi e anche per lavorare, per scambiare tutto quello che è. Oggi lo si fa invece in modo poetico e romantico, che si ci passeggia e si ci va per questo. Poi un altro posto invece bellissimo a Marina di Ragusa è la riserva dell'Erminio, è un posto certo. Fantastico, molto bello. La riserva dell'Erminio è una spiaggia straordinaria. E poi che dire, come ha detto Roberta, diciamo che le colline che ci circondano, le montagne... Sì, anch'io invito ad andare su quella spiaggia perché è veramente magica. Roberta, tu hai scritto La Repubblica del Maiale, che è un libro tra il serio e il faceto, perché è anche un libro che sicuramente è anche politico in un certo senso, perché fa vedere un po' l'Italia contemporaneamente allo sviluppo anche della sua cucina e della sua gastronomia. Cosa stai scrivendo ora? Allora, intanto La Repubblica del Maiale è un libro che usa proprio la cucina per raccontare 60 anni di politica e società in Italia. E ora sto scrivendo un libro che sarà molto utile, credo, a tutti i ristoratori. Parte dalla mia esperienza di ristoratrice, da questa nuova vita che ho intrapreso insieme a mio marito al ristorante che abbiamo a Donna Lucata sul mare, e si intitolerà Trip Responsor, un manuale per ristoratori. Bene, allora Ciccio Sultano, il Duomo di Ragusa, Roberta Corradin, scrittrice e giornalista, nonché il Consiglio di Sicilia a Donna Lucata. Grazie, mi avete fatto rivivere dei posti, grazie. Dei grazie. Posti con dei bellissimi ricordi. A presto. Grazie, ciao. Il Gastronauta. Eccoci di nuovo in viaggio nel barocco siciliano alla scoperta di sapori e saperi, ma non solo cibo, non solo grandi prodotti, grande cucina, grandi vini, ma questa terra, ho detto prima, barocco siciliano, ed è tutta da scoprire, una terra bellissima che, come ci si muove di qualche chilometro, sicuramente ci sono delle sorprese sia culturali, architettoniche, storiche. E io do il buongiorno a Rosalba Panvini, sovrintendente beni culturali di Ragusa e docente all'Università di Catania. Buongiorno, buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei. Volevo, io da lei volevo sapere questo: se un viaggiatore arriva appunto in questo territorio del barocco e non ha, diciamo, settimane, cosa può vedere di davvero interessante in poco tempo? E intanto il territorio è già fantastico di per sé, in quanto è un territorio ricco di elementi paesaggistici unici, un paesaggio nel quale sono calate monumenti non solo barocchi ma anche archeologici. Basti pensare che in questo territorio della Sicilia, che è quello più meridionale, che viene definito l'isola nell'isola, vi sono anche degli straordinari monumenti di archeologia. Basta pensare a tutto ciò che si può visitare per chi appunto dovesse venire qui in questa parte della Sicilia, nella cava di Stica, che si trova tra Modica, Scicli e Rosolini, che attraversa il territorio per ben 14 chilometri, nel quale appunto possono essere visti complessi archeologici, complessi monumentali che sono unici, perché questo canyon che attraversa questa parte della Sicilia è diventato uno straordinario contenitore, un contesto del tutto eccezionale. Io in questo momento mi trovo a Scicli. Scicli fa parte, uno dei tre comuni che sono patrimonio dell'UNESCO insieme a Modica e a Ragusa, e che quindi invito a vedere a chiunque dovesse venire in Sicilia, perché sono tanti e tali i monumenti, le opere d'arte che possono essere visitate, che il visitatore se ne andrà completamente ricco e soddisfatto. Senta, come ultima cosa, mi può dare una chicca di un posto, magari un luogo, un qualcosa di particolare che magari può sfuggire al visitatore ed è poco pubblicizzato? Allora, intanto la cava di Spica, che appunto può essere visitata andando da Modica fino a Rosolini, e poi per chi volesse venire a vedere questo straordinario territorio, a Scicli, via Mormino Penna, si attraversa parte della città, e qui c'è la straordinaria chiesa di San Giovanni con un crocifisso, cosiddetto crocifisso di Burgos, che è l'unica opera naturalmente di ispirazione spagnola che rappresenta il Cristo con un gonnellino che copre le parti basse e intime. Quindi io dico, sono tante, questa strada ad esempio, attraversando questa strada si potranno vedere tantissimi monumenti, e da ultimo per esempio la chiesa di Santa Teresa, dove sono per ora esposti gli affreschi che vengono dal convento della Croce, che è uno straordinario monumento del 400 con alcuni rifacimenti post terremoto del 1693. Bene, io la ringrazio di questa perfetta descrizione, grazie al sovrintendente. Prego. Beni culturali di Ragusa. Bene, continuiamo questo viaggio, e a questo punto diciamo andiamo ad incontrare un personaggio. Ho parlato di personaggi, bene, Carmelo Chiaramonte, che si definisce... Buongiorno Davide. Buongiorno a te Carmelo, che ti definisci cuciniere, non cuoco, non chef, ecco, devo dire che questo tuo modo di presentarti è veramente simpatico, però io ti voglio chiedere una cosa. Sì. Tu molte volte nei tuoi piatti hai raccontato in modo molto romantico, molto poetico la tua Sicilia, il tuo territorio, e ritieni veramente che ancora lo sia, e quindi sia ancora una terra appetibile da venire a visitarla e magari gustare anche dei sapori? Beh, io sono un cuoco che ultimamente ha preso anche la Via Botanica, per cui in questi ultimi 2-3 anni sto facendo molte indagini sul selvatico del territorio, e come in moltissime altre parti d'Italia qui c'è un giacimento botanico di piante mangerecce, di bacche, drupe selvatiche, che sono veramente un paesaggio incredibile, sia nei sapori che anche un po' nel motto che stiamo inseguendo in questi ultimi anni, del low cost, del muoversi, del conciliarsi con la natura e la propria natura di esseri umani, che hanno bisogno di sentire le vibrazioni anche di un cibo che spesso, quando è selvatico, è assolutamente un riassunto. Carmelo, anche a te chiedo, tu conosci, sei nato appunto in quel territorio, ci dai qualche luogo particolare che il viaggiatore potrebbe scoprire, cioè di quei posti che magari non si trovano nelle guide, che tu sicuramente conosci? Un luogo dove mangiare? Ma un luogo dove mangiare, ma anche un luogo da visitare, tutte e due. Beh, dipende molto dalle stagioni, sicuramente l'autunno è pienissimo di frutti molto rari, melecotogne, giuggiole, sorbe, di frutti abbastanza rari, la primavera è un'esplosione di piante, soprattutto nei diradamenti, a me mi piacciono molto le terrazze e le cave di San Giacomo, la parte alta verso Montelauro, perché poi tutto il tavolato degli Iblei è intriso di questi tagli netti, e quindi sono moltissimi posti, non ce n'è uno preciso. Poi la mia cucina preferita è quella di Maria Fidone, che La conosciamo molto bene, a Frigintini. Ecco, raccontaci qualche piatto della io manco da un po' di tempo. Maria quindi... Fidone è una cuoca sessantenne con degli occhi azzurrissimi che fa le cose che fanno quasi tutti gli altri, e lo fa con una certa attenzione, una certa delicatezza, i suoi ravioli di ricotta con la maggiorana, il sugo di maiale, piuttosto che le sue fave alla trappitara condite solo con l'olio d'oliva di Frigintini, di Tonda Eblea. Io la cosa che amo di più, che è poi il mio piatto preferito dell'infanzia, è il coniglio in agrodolce. Ecco, io ricordo anch'io un paio di pranzi da questo personaggio veramente incredibile, credo di aver scritto anche alcuni pezzi, e mi ricordo ancora i sapori, perché sono sapori veri quelli della Fidone, quindi sicuramente è un posto dove andare, perché veramente lì c'è la realtà del territorio. Ma rimani con noi ancora Carmelo, che poi torneremo, ma ora vado da Salvatore Barbagallo, presidente del Consorzio Ricerca Filiere Lattiero Casearia, perché voglio parlare con lui di questo formaggio, che è un po' un altro, se vogliamo vogliamo dei testimonial di questo territorio, il ragusano. Buongiorno Barbagallo. Buongiorno. Ci vuol parlare di questo formaggio perché molti radioascoltatori non lo conoscono. Ma il ragusano è un formaggio top tra i più importanti della Sicilia, un formaggio che è fortemente legato al territorio degli Iblei, un formaggio che è stato rafforzato da una rinnovata tradizione dei maestri casari che producono appunto questo formaggio sulla base di un latte di prima qualità. Certamente la presenza di risorse naturali di pregio nel territorio degli Iblei favorisce la produzione di questo formaggio che può essere semistagionato oppure stagionato. Purtroppo la produzione non è elevatissima e il consumo prevalentemente legato appunto al territorio siciliano, con una quota anche per le altre regioni. E questo è legato a una produzione che è limitata se confrontata con le altre produzioni tipiche italiane. Senti, diciamo anche che si chiama in dialetto uscalino, perché ha forma sì. Di scalino, no? Sì, è a forma di cassetta, è un formaggio che si mangia appunto semistagionato oppure stagionato. Il consumo, come dire, è limitato appunto dalla produzione, e credo che ci siano ampi margini di miglioramento perché la qualità del latte del ragusano è ottima, spesso si avvia verso produzioni più industriali e quindi siamo tutti impegnati per rafforzare questa filiera. Io anche nella qualità di presidente del consorzio della filiera lattiero-casearia sono impegnato nel territorio assieme a tutta la struttura per cercare di dare forza a questo prodotto. Bene, la ringrazio Barbagallo, torno a Carmelo, il cuciniere Giramondo. Carmelo, dacci così l'idea di due o tre prodotti di questa terra che sono significativi, due o tre prodotti da cucinare. Ci sono le fave cottoie di Modica, che sono un cultivar molto, molto importante perché proprio le terre calcaree di questo territorio gli conferiscono un sapore molto deciso, come anche i ceci, o abbiamo il fagiolo Cosarucciaru di Scicli, che ha tre fioriture per i legumi. Poi spero che prima o poi ritorni in auge, perché fortunato qualche volta l'assaggia, la carne di vacca modicana, che è una razza rustica siciliana che discende proprio dagli antenati dei vitelli selvatici siciliani. E poi devo dire che il resto è una guida botanica officinale di piante mangerecce sotto braccio e diverse passeggiate. Quindi non bisogna muoversi da questo territorio, Carmelo, cioè andare e tornare, così? Il territorio ha una pietra bianca, luminosa, che acceca occhiali da sole, ma sicuramente mette molta pace nel cuore, nell'animo, perché è un territorio morbido, la gente ha una cordialità innata. E tutto ciò che vedi ha delle curve molto morbide, semplici, per cui ti rigenera sicuramente. Bene, grazie a Carmelo Chiaramonte. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in viaggio nella terra meravigliosa del barocco siciliano. Ora facciamo tappa a Noto, la grande Noto. Ebbene, e ora farò parlare un personaggio che ha assistito ai miei primi viaggi negli anni 90 in questa terra, con cui sono andato tantissime volte in quel suo caffè straordinario dove si mangiano gelati, granite, ma soprattutto si mangia anche la scienza, la conoscenza di questo Corrado Assenza, che è appunto il Caffè Sicilia di Noto. Buongiorno Corrado. Buongiorno Davide, buongiorno ai radioascoltatori. Senti Corrado, dammi così uno spunto, dammi un'immagine della tua terra, della tua Noto, perché sto invitando a fare questo viaggio e tu sicuramente sei un grande poeta, non solo dei sapori ma anche così dei tuoi racconti. Ma Davide, è facilissimo, guarda, il blu del cielo, il blu intenso del nostro cielo chiaro, terso, limpido, è il colore miele, come diceva Cesare Brandi, delle pietre, delle facciate delle nostre chiese, dei nostri palazzi, dei nostri monumenti. I giochi di volumi tra piazze, larghi, facciate, capitelli, lesene, timpani, trabeazioni. Il barocco, l'architettura barocca era un gioco, era un divertissement che esprimeva eleganza, leggiadria, potere, capacità economica non indifferente, è tutto giocato con questi toni della nostra pietra, delle nostre case, ecco, anche il terroir ancora una volta. E ora scendiamo alla magia dei sapori, i sì. sapori di questa terra, raccontaci i sapori di questa terra. Sapori di questa terra immensi, vasti, sterminati da un altro nome, da una forbice antissima che va dal selvaggio al coltivato e quindi va dalle erbe officinali aromatiche spontanee, la salvia, il timo, il rosmarino, l'origano, chi più ne ha più ne mette, i capperi che non sono niente di meno, da meno di quelli di Pantelleria o delle altre isole minori della Sicilia, per poi chiaramente cominciare con Sua Maestà il mandorlo, che in questa terra lussureggia e trova la più alta espressione qualitativa, organolettica, aromatica soprattutto, che ha fatto di questo frutto la bandiera della nostra pasticceria e della cultura materiale alimentare di questo popolo. Ecco, e poi arriviamo agli agrumi, i limoni, gli aranci, i mandarini, il carrubo, Sua Maestà l'olivo. Sono i grandi protagonisti del paesaggio della nostra campagna, i tre grandi protagonisti sono l'olivo, il carrubo e il mandorlo, e poi i minori, gli agrumi, il verde degli agrumi che si differenzia dagli altri verdi, e poi ortaggi. Ecco, hai citato il carrubo, tu sai che è una delle mie cose preferite, la farina di carrubo con i biscotti, ma anche con tantissime altre cose. Hai inventato qualcosa ultimamente a base di carrubo o di farina di carruba? Ma guarda, col carrubo ci siamo permessi di fare un frullino con una farina integrale di grano tenero che deve essere a partire dalla colazione, arricchendo la ricetta di extravergine, non di burro, la possibilità di avere sul palato appunto la naturale dolcezza del carrubo. E poi è nato, per noi lo sai benissimo, tutti i nostri gelati hanno come unico stabilizzante la farina di semi di carrubo, e quindi sempre con noi presente in ogni angolo del mondo dove noi ci spostiamo. E poi abbiamo un dolce che serviamo da tanti anni qui al Caffè Sicilia, una pasticceria fresca, il paesaggio isleo, dove un pan di Spagna profumato di mandorle e carrube contiene una crema che è una pasticcera montata al burro con lo sciroppo di carrube stesse. È tutto ricoperto di cioccolata a ridare giustizia di quella cioccolata autarchica che durante il ventennio era un surrogato del cioccolato vero, che era il carrubo. Noi abbiamo cercato di rendere abbracciati il vero cioccolato venezuelano con la vera carruba siciliana, e ce l'abbiamo fatta. Ecco, rimani ancora con noi, io voglio dare l'ultima tappa di quei posti un po' particolari di cui abbiamo parlato all'inizio, e andiamo a Cavallo d'Ispica, sempre vicino a Modica. Già la sovrintendente ai beni culturali ha parlato di questo luogo di Cavallo d'Ispica, ma io voglio andare dentro a questo Cavallo d'Ispica e voglio andare in un mulino d'acqua veramente straordinario che ho visto tanti anni fa, magari ora è ancora stato ristrutturato ancora meglio. Buongiorno ad Alessandro Cerruto. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti. Che è proprietario appunto di questo mulino. Ci vuol parlare di questo mulino d'acqua da quando, a quanto tempo fa risale? Beh, questo è un mulino che è stato costruito nella seconda metà del 1700. È comunque un mulino di tipo arabo. Il nostro territorio non offriva in passato, né tantomeno ora, diciamo, la presenza di grossi fiumi, e quindi qua è stato utilizzato un sistema che non sfrutta il flusso, diciamo, enormi quantità di flussi d'acqua perché non erano presenti, ma la presenza di dislivelli che invece sono caratteristiche del nostro territorio. Quindi questo è un mulino che appunto sfrutta la differente quota e che riesce a produrre comunque da quelli che andavano dai 20 ai 60 kg l'ora di farina. È un mulino che ancora oggi è funzionante, ancora produce farina, è attivo in tutte le sue parti. Ecco, chi la utilizza questa farina? Panettieri soprattutto? Allora, in realtà direttamente il turista che viene alla struttura ne fa utilizzo, ma non solo, ovviamente abbiamo anche strutture che lo vanno ad utilizzare, qualche pizzeria, qualche panificatore appunto, sì. Si può sempre visitare il suo mulino? È sempre aperto, tutti i giorni noi facciamo una visita guidata e facciamo vedere la struttura ancora funzionante, che appunto ancora produce farina, facciamo assistere alla produzione, diciamo, alla setacciatura, e quindi a vedere le diverse componenti che lo vanno a costituire. Grazie, grazie ad Alessandro Cerruto, mulino d'acqua a cavallo di Ispica. Ma un'ultima chicca, voglio da Corrado Senza, che non è dolce, ma questa chicca deve essere. Tu conosci Noto come le tue tasche, evidentemente, visto che sei nato, sei vissuto in questo posto meraviglioso. Ti voglio chiedere un luogo che è così abbastanza poco conosciuto al viaggiatore che arriva, magari le guide non lo riportano, un luogo segreto della tua Noto. Guarda, Noto è un paese adagiato, come tu ben sai, sul periodo di una dolcissima collina, il Col del Meti, dove gli abitanti sopravvissuti al terremoto del 1693 edificarono la città. E quindi questo pendio divide il paese in due metà, il piano basso, il piano nobile, diciamo quello con la cattedrale, i palazzi importanti, e il piano superiore, il piano alto. Il piano alto ha una vita che scorre molto spesso parallele, non si sovrappone a quella del piano basso. Era il luogo delle piccole famiglie borghesi di campagna, che avevano una piccola residenza in campagna e una piccola residenza in paese. E io amo molto la quiete e la tranquillità di quei luoghi. Dentro al piano alto c'è una sorta di belvedere nascosto tra le case, una micro piazzetta a cui si accede da una micro stradina, una nano stradina, dove passano se non due persone affiancate, e poi improvvisamente questo terrazzo si apre verso la valle. Sotto ci sono delle vecchie grotte dove stavano gli armenti, dove i rifugi notturni per gli animali, i bovini e gli ovini. E tu sei sospeso nel nulla che guardi il mare, di fronte a te c'è i vendicari, di fronte a te c'è il capopasso, di fronte a te c'è i due mari, lo Ionio e il canale di Sicilia. Quindi un luogo sicuramente imperdibile. Grazie Corrado Assenza per averci dato questa descrizione non solo dei sapori e dei paesaggi, ma anche di questo luogo segreto. Ebbene, questo viaggio è giunto a conclusione. Io credo che ci siano tantissime cose da puntare su un taccuino per chi volesse andare appunto tra Noto, appunto Vendicari, tra Modica, e poi continuare fino a Ragusa Ibla, che Ragusa Ibla è veramente un luogo meraviglioso, appunto come ci consigliava Ciccio Sultano, da fare a piedi. È un po' faticosa la risalita, ma sicuramente se si va solo in discesa si può fare, e come. Bene, abbiamo così concluso questo viaggio. Io vi auguro di poterlo fare e di poter sfruttare un po' tutti questi indirizzi e questi appunti che vi abbiamo fatto dare da personaggi che vivono appunto questo territorio. Un caro saluto e un buon weekend da Davide Paolini. Grazie a Anita Panizza, a Lucia Tolve in redazione e a Pietro in regia. Alla prossima settimana.